Graziano! E dimmi, ciao Tore! Bene, sta funzionando! Che prendo il telefono! Dimmi tu! Ho detto se sta funzionando bene questo coso! Ehi, dove è andata a finire che ci stavano tutti cercando l'altro giorno? In Africa! Oh! Ogni tanto il microfono, se non schiaccio bene questo PTT, non funziona il microfono, se no. Ma cos'è il portatile? No, non è il portatile. Ah, sarà difettoso il PTT, l'hai guardato lì? Sì, lo devo aprire, lo devo, questo microfono qua, e guardare a vedere se ci dru... il pezzetto che ci va. A me una volta mi c'era rotto uno all'interno, io l'ho aperto, c'era il pezzo, però a collarlo veniva male, allora gli ho messo un pezzettino di legna e me lo teneva accugnato e funzionava bene. Invece con la plastica sua non veniva bene, si era spaccato da solo all'interno e mi separavano i bicchi, allora gli ho messo questo di legna. No, qua deve essere che me ne è uscito una specie di pernetto, me ne è uscito, che fa da spessore. Deve essere una molla, e me ne deve essere sassata a drentare alla plastica, deve essere sassata. Deve essere tutto dentro però. E anche da me faceva una cosa simile. Io l'ho svitato, il pezzetto se ne è passato dall'azzurro, deve essere dall'intempiglio, e gli avevo messo un pezzettino di legna, se no ci scendeva la mollettina dentro. Faccio un minuto di tempo, lo apro e lo guardo bene. Ehi, mezzo tempo, per carità. Ma avevano previsto me che era arrivando questa cosa. Hanno previsto. Purtroppo, anche questa ci vuole. Lo so, infatti gli vieni ci fa forza ancora e già so bici di Roma stessi. Tu vieni andare a ritirarmi l'agnone, il buchi e so che andare a ritirarmi il macchino. E la cantore bigliato? No, ma la, un pastore, un amico mio me lo porta a me, però dovevo andare io a prenderlo, non ci poteva scendere lui qua. Sì, hai fatto bene. Hai fatto bene, io l'ho preso qua alla Conad, l'ho preso a 6,90. Ehi, devo essere anche mia moglie, ne aveva preso un pezzo qua mia moglie, ce l'ho nel borsetto, lì alla Conad, dove c'è il treno. Ehi, aveva preso un pezzo d'agnello, la che ne basta da un pezzo di... metà, la metà della metà di porcette di agnello aveva preso, adesso... che la vede, figlia, io già non le mangio. Ti domani bigliati. Sì, vabbè, io ne mangio la cheppizza, ne mangio. Lo mangio io che lo mangio con le olive, lo mangio. Non mi azzombe cura riva a me. E poi l'ho preso per portarlo su da mio cognato, hai compreso? Ma io lo assaggio solo a chi... mi va di accusa a me l'agnone, pochi tu mi mangi un pezzaretto ma te, noi in buccia mangiai, ne mangio un pezzettino in lo compro per loro, chi da poi manco e ti si mangia, e però se viene mio cognato con mia figlia, va mio cognato, mio genero con mia figlia, l'amica di mia figlia già si mangia niente. Meglio così. È meglio così, armaco giù le stesse e non rimane in chivi. Cioè, te rimane battredi e ti rimane. Poi, guarda, l'anno scorso ne è avanzato un bel laggiato di 40 mini buchi. Guarda, per il giorno prima l'ha cucinato, l'indomani veniva ancora a Maria e non aveva mangiato nessuno il cargo. Era sempre bene che si dice, ma cos'è cresciuto il calvo? Ma una cosa, vai dalla palazzina con i buchi, se non mangia niente. Invece l'altra volta ancora la paletta è stata più lunga. Quando l'ha preso, si l'ha posto nel contenitore e se l'ha conservato nel posto. E poi piano piano si ne bucava un pezzo. Quando una piaga ne ce l'ho, si ricagliava un po' e ce lo mangiava. Ha fatto bene. Ma così non è bello. Ma c'è un passato si è aggiurampato un bello, si è aggiurampato. Mi ha toccato dalle a anche se gani che acciappavo, rubunia. Cani e giatti ce l'hanno mangiato. Ma mi, beh, oggi ha pigliato un pezzo, da frigito, tutto visto, bello. Quindi ha fatto la zuppa, la dice, e ha fatto un e l'ha fatto un briso. E viene un piatto, e gli diceva che si è pronta a lavare gli altri. Tutta notte, non venne, migliora non venne. L'altra venne a ridere, niente, non rimagna. La notte mangia le zeri, ma se io non rimagno, e chi si andrà a ragazza? Infatti, come te lo devi, ma non l'impazziro, dai, ho arigliati o arigani. No, al cane non gliene do pece, ma la ragazza gli si rimagna, quindi so 4 o 5 non vi so. Infatti, ed è così. Ma niente, c'è Gian Maria, no? Ieri l'ho sentito un pochettino il buo, avanti ieri mi sembra che è rimasto un bel po' fuori, è venuta gente e non ho più sentito. Luca c'era, ah no, ieri c'era Giulio, però poi qua a un certo orario è venuta gente e non ha già rimasto più il fuso, me ne ho un po' dimenticata che era in salone di due. Ce l'aveva acceso qua in cucina, me ne era anche dimenticato. Quando sono rientrato da prendere la mia moglie erano sul 23 erano. Lui e Franco di Sorso. No, col PMR era. Franco c'era quando stavo uscendo, ma quando è venuta gente, era entrato Franco e non mi sentiva con il portatile. Però io poi la giusta Giulio già entro subito e poi c'era niente quando sono andato a aprire, si sono rimasti e sono dovuto rimanere lì già, capito? No, ieri ha fatto un passaggio Giulio, Luca mi ha detto che l'ha fatto la doccia, è andata a fare la doccia e non l'ha più sentito. No, ma io verso le 8 meno 25, erano sul 23 erano... Ieri sera, adesso che entrate in bura da buio, all'otto a Giusarrato, a giù da Sadessà. Ehi, infatti a mamma, a Giussi, beh, a chi mi ha mangiato fatto un caffè, mi ha giubilato, a Giussi, beh, a mamma ha tenuto un po' con un compito, tanti no, non fai nessuno, è più di 2 ore a seguito, dice, in altra vacca, solo tu adesso sei entrato. Ah, io che intendo, ogni tanto intendo gas e carica di fulmine. E adesso in lontananza devi darsi. La dici fa via, va a casina, tempo feo. Ma non ne accendo io, 23. A chi è sempre più bene, però adesso sta piovendo. Oh, piovendo sta. Vabbè. Già fasi bene, se serena serena, così già fasi bene. L'importante è che non faccia tipo temporale. Ah, che sì. E beh, Luca, mormito ieri. Ah, cosa dormito? Dormito sei tu, non io. Sono rientrato a sono uscito alle 2:30 a fare delle commissioni. Sono appena rientrato. Ah. Ha sentito il trono? Sono in compagnia di Tore. Ha steso là il drone, Tore. No, qui c'era una bomba, era, non era il drone, qui c'era una bomba. Ah, una bomba, nulla lo sa, Luca, e lui. Ah, secondo me ti sei trovato tu, altro che bomba, Ciao, Tore, mi senti, Tore. Tore! Dormito, sì. E che facendo, Tore? Te lo dico. Ma ha perso la Juve, Luca, che ti ha descritto cuccia. ma Io ho visto una brutta partita ieri, la 2-0, che la millenna, giù mai vinsi. Giù mai. Le migliore era incazzata, era. ma comunque già perso è qualificata, mi. Appunti, a chi ha perso l'orologoso, l'Arsenal ha perso. Oh, veramente la IA qualificata, non è come te l'Inter, una squadra di molti. E ti l'ha detto, mi, buonasera, e ti l'ha detto, grazie. Ciao Flavio, tutti gli zombie c'erano. Segata rimani. Ah, non ce n'era fotti Bruciani Casegata, ha fatto un turnover, ha fatto vincere 2 milioni di euro a quei poveracci che non hanno mai vinto niente. Oi oi oi, ritiretevi, mandate zio a Spalletti, mica vi c'è un paio di Spalletti da fare, no, Gimmi, mandamilo a me che l'attacco a Romulo. Sì, vabbè, noi abbiamo palleggiato, voi avete perso. Oh, lo problema è che voi siete fuori, da un campionato, da Coppi, da tutto, non è che avete pareggiato, no? Non c'entra nulla, noi abbiamo vinto 4 su 6, capito? Perché uno l'abbiamo pareggiato e l'abbiamo persa con il Paris Saint-Germain, ma con il Manchester United. Voi ne avete messo 4 e pareggiato una. Vabbè, ma noi non furemo la differenza bursa, No, infatti, le ladri sono sempre a Juventus, i ladri, i juventini sono tutti ladri. Ricordati che i ladri sono stati i dirigenti e chi comanda, non i giocatori. Quello lo fanno la sua parte. E infatti a me da sono uguali. Non si può parlare con gli interisti, lascia perdere. L'importante è che siete sotto, non avete nuda, non vi siete nuda e siete una squadra di cadaveri per la nazione italiana. Allora, la squadra in sé, la Juventus e tutto tutti quelli che la circondano, sono quanti di politici, prezzisi, né più né meno. Lo so, è così, però è una squadra che vince e convince. Voi siete una squadra di cadaveri, per carità! Se non ruba muore di fame, e così fa la Juventus, uguale, sta sempre rubando. Sì, lo so, la Juventus è una squadra di ladri, gli interisti invece siete una squadra di imbecilli. Vabbè, ce l'avete pagata la Serie B, ce l'avete pagata, c'era anche visibilità che era di ladri, vedi un po'. Ma noi siamo ladri, infatti siamo 8 anni con quest'anno che vinciamo il campionato, e poi ci siamo ladri. A che fa 8 anni, saliti dalla Serie B, per 8 anni stiamo vincendo il campionato, ma non di un punto, no, di 10, di 15, di 8, di 5. Dall'Inter non se ne parla, dall'Inter sono 30, 20, 50, ma l'unico che può dar fastidio alla Juventus è il Napoli. Cadaveri, vergognatevi! Allora, una pratica da mettere alla Juve, che voi siete la squadra di mafiosi, avete la mafia, ecco perché, la mafia, invece l'Inter la mafia non ce l'ha, non ha soldi, non può comprare, invece voi una mafia, occupare di tutto, capito? Ecco dove sta il problema. La mafia, ma non vuole mettere la mafia, c'ha tutto qua. E infatti c'è una differenza, che noi, lo presidente italiano vuol dire, non mafiosi, no, stai parlando di Agnelli, voi vi siete dati ai ginesi, alla mafia ginesia, voi siete mafiosi, voi eliminarizi, voi sì siete mafiosi, tanto va a restare a tutti. Col presidente Furgoncin che ci avete, tutto state rubando. No, non lo conosci tu lo presidente dell'Inter si chiama Ciao Pompini. Anche Furgoncin. Comunque Luca, se ti serve una Fiat Agnelli ce li ami. Va da Agnelli così ne approfitti. No, che l'ha regalata Icardi, a chi l'Inter non le dirà per comprare la macchina Icardi. Ma lo fu per me serve a me. In Champions sono entrati i Scidi, hanno fatto l'entrata del Leone e uscita dello Guglione. Mafia, sono la Juve, mafia. E me ne vanto di essere mafioso, ma no imbecille. Siete mafiosi, ladri, fallosi, paccaridaga, spero che tu acqua per il a capo a ogni vallo. Lo so, però avete messo buro a Torino, e voi pensate buro a Milano, mette tutti i lastri. Ciao Torresquaro, arrestate gli interisti! Grazie, ma che tu intervista, dici intervista, non ti fa vedo più, eh. Io sono del partito Mangime. Ah, così sì, tu sei il presidente dell'Inter, tu sei del partito del piatto Cupudu. Di Romagna. E allora, oi, oi, oi. Tore, di che partita sei tu? Partito sono io, la Juventus. Anche mi regala la prima macchina nuova a me. Guridina. No, to, fatti la regala da Gozo, da Cicciampao. Lo presidente si chiama Cicciampao. E allora tocca pigliare una macchina giapponese. A me le macchine giapponesi non mi piace. Che invece che andare a 4 andare a 8. Manco macchine, vai, biciclette buone avere, cosa macchine? Pacca di daga, passa via. Ma rimetto c'è una squadra nazionale, internazionale, in mano di cinesi, come te li menalisti, non sappiamo di cosa va. Luca, se va con niente va. Luca, non ti vergognare. Ce l'hai vinto tutto alle giapponesi, alle cinesi, per pagarsi i debiti, c'è ancora favendenti, cazzo, ancora c'è favendenti. Nane ancora di Play Store da. Oh ya! Yeah. Play Stop, no Play Store, non puoi recuperare nuda, non puoi vendere nuda, a ti fare tutto il potteccato. Ma fende la voce, eh? Cata, io ho mettato il QRM e me voce in oggi. No, io non ne ho QRM, c'ho la finestra chiusa, se no entrano i ladri. Pensato. Ma più o meno sta? Ehi, è anche più forte adesso. E fitta, però è più forte. Boh, non si vede da qua. Da qua non si vede. Sono dentro, dall'altra parte non si vede. Oh, mamma mia, come sto? Ma prenda niente, non si vede. Tutto fuschia, pugna di Baraeva, un bel. E no, che aveva un bel di nebbia. Nebbia in Valpadana. E non ci sono sul freddo, anche un cuscato. Allora ci vedono le luci della brittella che c'è a Canica e basta. E boh, a chi sono gialli. Gialli le vecchie negli interisti. Un bel più bello. E tanto mi sa dove c'è qua dei cadaveri, eh? I cibinguini, ma si può giocare in un campo sintetico tutto ghiacciato, meno 3 gradi, ma si può giocare, eh? Chi si sono pinguini, non sono giocatori, no? Tore! Ehi, grazie, dimmi. L'hai visto ieri sera, c'è la notizia, che ti prendi la macchina a noleggio tramite con lo smartphone, col telefono. E la puoi pigliare pure i minorenni prendono i dati della patente di un altro sempre col cellulare e un minuto si ha pigliato la macchina il suo vicino un minorenne, non l'hai visto? No, non l'ho visto, no, non ne guardo di quelle cose io. La Rosa che non abbaglio io di chissà cosa. 5 minuti va a posto, ha preso i dati stessi dal telefonino di una patente qualsiasi, ce n'erano varie, no? Ha sempre col telefonino, ha digitato nome e cognome di quella patente e gli hanno autorizzato andare al parcheggio a prendere la macchina, una 500 a batteria. Lo stava facendo vedere a quella di Striscia la Notizia. Allora i trucchetti mentre ci studiano. Peggio baete. Così hanno manco la delinquenza e ci più baeci. Sì, a elettrico ci hanno studiato un metodo per farli rubare di più con una levetta. E così si ammazzano prima, si ammazzano. L'ha fatta provare a quello di Striscia la Notizia. Motorini sono, non sono biciclette, motorini. Abbassi questa levetta e non fai male in giamata canto truba. Boh, non lo so, grazie. Non lo conosco. Scusate. Ieri l'hai visto Striscia la Notizia, Luca? No, non l'ho visto. Mi sono dormito, capito? Ha fatto vedere le biciclette elettriche, ha pedalata, aiutata, come si chiama, a Napoli, stanno studiando un metodo con una levetta vicino, sembra un campanello. Schiacci quella e cammina canto uno, canto uno scooter. Ah, vabbè, quello ho capito, con la pedalata, si stizza. Come si dice? È l'acceleratore, non so. Vabbè, dai, io mi accerto che sono appena arrivato, devo fare una fila. Dai, fai 20 minuti, mezz'ora, insomma, rimango in ascolto, dai. E fatti fregare le spalle, chiama Luca. No, se vuoi venire tu, ci vieni mai? No, io sono impegnato qua, sto facendo cosa? Sto mangiando il cioccolato, il bacio. Dopo ti bacio io, vieni. Quelli con la ciliegina, Claudio. Con la brittella. Con la ciliegina. E beh, torre. No, senza la torre. Qua è Ciampino. Già a te ci ti posso chiamare dall'amico Giulio, dai nonni, già lo sai. Ah, non ha già amici così io. Ti piace sempre un telefonino, ehi, catta, bambù. Graziano, Graziano. Ti abbia mandato un babbo Natale, ma... non c'ho il coso tuo, se no te l'avrei mandato a vedere se ti interessava quel babbo Natale. Ah, futidini, grazie. A due tra Giulia mi domando, se non può mi domando. Dice babbo Natale che sono così tendi, è meglio che non gli rimando, che sennò si offendi. Caspita, era già pensato la macchina con un bel frucca e leva. Dai, infusa! Frucca! Caspita, quel tipo che è in Piazza Italia lì ad Accademi, si è pure a ma, un leva che fendi l'abbiamo voluto così. E tu di lì con una catena a rubare della luce, non l'hai visto? Ma oggi non penso che vi sia, no, che se no ce l'ha fatta a cicotta, ce l'ha fatto. No, che se la mangi in un piatto di risotto, l'ha regato, che tu ci fu. Che ogni adeore da chi per fare il casino, si fate ripigliare con la telecamera, non l'hai visto? Ha detto che il danno lo sindaco non l'ha dato un permesso, non l'ha dato. Oh, ma quel tipo l'hanno licenziato così, fatto i figlioli, che su bovaccio, boh, l'hanno licenziato sui due piedi così. Ma lui c'aveva quel tipo di giostra, e non per anni fatta piazzare. È fatto piazzare tutto il resto, però chissà no. Cazzo, ma così di grazie a te, lui sindaco, boh. Chi ti va una famiglia? Che cosa metti in voce? Per darci chi non le piace da chi sanno che c'ha questa specie di giostra. E allora non so cosa ha detto. Ma è macabro il suo sindaco. Proprio chi sanno ha detto uno, boh basta, ma chi sanno è finito. Al prossimo anno. Boh, andiamo via, andiamo. Invece da aiutarla il suo bovaraccio aiutano gli emigranti. Roba la macchina. Che ci volete fare? E una mia saccata lunga balazzata in Piazza d'Italia. Alle buone la riusci tutti i gatti. C'è la boccia oggi. Ehi, hai lasciato anche bene. In Piazza d'Italia ne aveva tirato un capo. Alle buone la riusci tutti i gatti. Ah boh, non lo so. Non te lo saccio dire. Oggi ci dobbiamo abbonare una tenda e chivi e attaccarci a te se rubaro. Roba la ricugno, andiamo via, se manda in peggio. Uia, roba di dani. Così vai a chiamare a Gianni Maria se ti risponde. Attenzione Gianni Maria. Non ti rispondi, no, tu starecci, boh. Vuol dire che si offende, che cosa offende? Ha fatto un contratto con Berlusconi, una di lei va a mettere la televisore. Sì, sarà a mettere la televisore o fa gente? Ma mi ha dato un filmato in bicicletta, era Edo e Luca, ha modificato la bicicletta. Sì, a me l'ha detto, sì. L'ha cavato il gestello e si è buttato la batteria in alto. E arrivati tutti sparati sotto al portico in casa sua, chi lo frena dice la carinata. Andiamo, andiamo. E Luca Giammaria, anda piano, anda piano. Un giovincello, Maria, non vede, correni. Vedi che li piace, anda. Se no in giro in bicicletta va. Polacci, va avrà l'ombrello. Andiamo, andiamo. Però, caspita, dici che la giusta rimane a questa notizia. Cammina lungo, caspita, addirittura chi dà di là, dice, c'è un napoletano. Che penna nel buio, a pedra da venire, a senso durati normali. Sì, cosa vuoi fare? Dice se la ferma un vigile, lo sa che è manomessa e gliela può anche sequestrare. Questa è una bicicletta, non è uno scooter. Basta in caso che serve, basta che schiacci lì e cammina appena appena di qui. Ce l'ha giù visto già. Grazie, è così. Attenzione, Gio Maria! Ma Zirico ci sarà sceso dentro un cavolatore! Chi cioè della campagna, sempre in campagna, chi non si pianta è vive e buh! Ah, non lo so dove sia. Non idrommi la luce, ma in campagna! Oppure, non so che tra me ne farà campagna, beh, da un poco. E se no io, e allora, subito, che sta di veone, a mamma mi sarà un freddo, se no beh, sta a tenere un fuoco. Dentro casa, in campagna col fuoco acceso stai bene, ma quando ci vuole aveva un freddo che te muori accelerato. E quello è il bello della campagna, hai compreso? E allora, un'umidità, quando mi cadia in campagna. Domandano dove prima ci mi ponia cuffietta contro cuffietta, giubbotto, mi trovi con i cristallini in capo da vola. E vabbè, ma non ti fai tutto che ci verrà ancora. Ci verrà ancora, non è giunto. Ma con l'umidità, l'urinatore come ti varava, un bel di mangiare. È un bel freddo. A primavera già mi piaceva, ma inverno non mi piaceva, sempre tutto in fuso, tutto umido. Non mi piace proprio inverno in campagna, è sempre in fuso. Purtroppo è così. Andiamo bene così. Prima di piace, ma proprio d'inverno, l'inverno non mi piace. Per le volte per morire mi dici a fare mi campagna cosa farà fa? Fa rimanere su casa, fa rimanere su casa e mi dico fino. Cosa posso? Campo di casa. Già mi so fino. Ma ci si vuoi andare. Androne sì. Dai che l'inverno è brutto in campagna, specialmente a riguardo e mezzo è già nudi. Non fa. E in primavera, d'estate già è bene, ma proprio d'inverno non mi piace brutto. Signor Bacchisio, buonasera. Buonasera, signor Tom, buonasera Graziano. Graziano mi ha riconosciuto al suo razzo. Alle 4:30, Graziano, quando va a Zivuccio, si anda in crociera, e quando non ti vede nessuno. Ma prima non puoi fare, ti cucavi in due e te ne bisavi in 3 o 4. Avala se sei dai, ti cocco in due e ti ribeggi pure la giura. E che sicuro? Non qui tu hai. Tore, Graziano, si coccano in due e ci lascia fare la giura. Infatti è così. che non casi più come te prima. Vero, grazie. Allora, signor Bacchino, come ti mai non eri più in trend? Ma se non so che in trend, so che scendi io, ho capito. Ma la 27 non stai più uscendo? Sì, non c'avevo tempo questi giorni. Ero impegnato. era femminucce, capito? Ah, così è, andave allora. Andiamo bene, andiamo. Vabbè, mi è tutta colpa di Graziano, Graziano, ma cosa ne pensi tu? Favitania 27 o andare a femminucce? Andà a femminucce? Ah, ma tu ti fai un sasso e c'è tutta la musica al telefono. Allora è giusto. Sì. Amplificato, dammi, è un pensiero, bellissimo. Allora, ce l'ho trovato. Gian Maria, non si è presentito? Stasera, non lo so, ho impegnato, ho vagenti, ho attaccato allo televisore. Penso che entri. Marino, nulla. Marino stava volando, e dunque niente da fare. Avanti ieri sera c'era nella 27, c'era Giulio e Franco di Sorso che l'hanno sentito, io sono entrato dopo e via gli asserrato. Andiamo all'ufficio, continuate. E me non l'allagami che su ufficio. Oh, a femminucci è andato Graziano. E allora Bacchi, tutto bene, sì? E insomma... devo sistemare, no, mi ha giocato l'umana in occhi, che sa proprio freddo, quando esci da Trento allo terrazzo fa freddo, allora tu dici no, quando fa di freddo sopra non fa tempo, ecco, adesso mi devo scendere un capo qua, il capo c'è, però il problema, l'alimentatore ha già da comprarmi in uno domani. Oh. Ci vuole l'alimentatore, quindi te ne è sceso tutto lì, te ne è sceso? No, solo il grande ne ho sceso giù, però l'alimentatore non ci sta, è troppo grande quello là. E dunque me ne compro uno da 30 ampere, piccolo, io metto che hai occhi sotto al mobile. Ah, come di quel tipo là? Di come ti si fa giù sopra, quello con la ventola, dai cinesi vado. Anda, beh, anda. E poi gli metti l'interruttore e gli metti? E l'attacco delle banane, se no bisogna stare lì sempre a cacciavitare. Infatti, mi fai tutto quello che è cosa, vedrai che già funziona bene poi. No, perché quello da fare l'attacco da 5 ampere, quando accendi il grande, si bonza, si spegne tutte le luci. Infatti, anche non verrà vasi. La 5 ampere non ce la fa, che da assorbe. Ma neanche dandogli un watt, non ce la fa neanche. E non servono più come prima riusciamo a trattarli, non verrà vasini più. No, vabbè, ha più di 40 anni questo alimentatore, e più di 40 anni, cioè sono dei primi che ho comprato. Della ZG con due strumenti, 5 ampere, allora ero più maturo e a 5 ampere. Io che so, le cose, la scioscia, una resistenza, la scioscia, e va è tutto fuori fase, e non so che resistenza banda. Questo è, se c'è la resistenza di scioscia non si legge i valori, invece andare buio. Basta provare anche, cerca di andare a un chilometro. No, era da 6-7 ampere era, quindi si era bruciata, ha scaldato la resistenza e se n'è andato anche due paesi ed è uscito fuori coso, è uscito, e quindi... rimane alterato, invece da di 12 adesso ti dà di meno. Ecco, si è diminuito. Dottor Stranamore, perché non gliel'hai fatto vedere? Sì, ma se non conosci il tipo della resistenza che ci va, è inutile che lo dai a Ed e non fai nulla. Ma dai, lo sappi di lui. A chi mi vede mi muricheggia e mi dà che cose. Sì. Si fruga. Se no, ti do rimanimento, un coso, un trasformatore dove devo andare a fare un coso, un caricabatterie, ma è trasformato, dammi che lo faccio. Ed è un coso, un trasformatore che c'era nel lineare da 1000 watt. Ah, hanno compreso. Ho capito, già è così. Ah, questo c'era scaldato, la resistenza si è fatta nera. E non si vedono più i colori di quanto è. Sì, si è diventata nera. E non c'è lo schema, non ce l'hai. Ho buttato, ce l'avevo. E non lo so dove c'è uscito lo schema, boh. Vai tu a Ciapparu. Sì, vabbè, quando passano gli anni si perde il buco. No, io li metto sempre tutti insieme. In una cartella ce l'ho tutti. Tutti. Magari se cerchi quello che ti serve non c'è. Ho provato a cercarla, ma mi dà tutto diverso, me lo dà. Ci ho provato a cercarla e me ne dà diverse, me ne dà. Quindi no, non fa niente mancare il ma già vi raggio le cose, gli alimentatori qua. E internet non ti dice niente? No, non mi dice nulla, no, me ne ha fatto vedere alcune, me ne ha fatto vedere, però non sono quelli. Sono diverso valore, sono diverso valore loro. E allora, no, occhio, ma se devi andare, cercare di individuare il segreto. Ehi, vabbè, sarà così. Io, ma me, da tanto la già rombato massa, io avviraggio l'alimentatore, no? Faccio una 50 e una 30. Ah, allora sì. No, io ne avevo una 5 ampere, che ci mancava il trasformatore. Se il trasformatore mancava, perché si è bruciato. L'altro è stato buono. Non so, a qualche due l'ho regalato, perché è in mezzo ai piedi. Tutta la struttura, escluso l'alimentatore del trasformatore che ci mancava. La più regalata, che non me ne va via proprio nulla. E intanto quello che c'avevo io e quello là non me ne faccio nulla. Si è aggiunta una base di raggiunto. Allora, si potrà tenere, cioè questo da 30 che avevo preso e questo da 50. Cioè, che avevo messo l'interruttore e gli spinuti dietro. Ah, ecco. Ma anche quello da 50 da sempre dai cinesi. Sì. Luca me l'aveva ordinato e l'ho modificato, gli ho messo l'interruttore davanti e le banane dietro. Sì, quello fatto io, quello da 30. Quello da 30 l'ho fatto lo stesso lavoro, l'ho messo l'interruttorino e due banane dietro. Due attacchi c'ho dietro. Sì, questo da 30 c'ha il coso davanti. C'ha che è tutto digitale davanti. E che cosa attacchi non ne ha? A cacciavite, mentre ho cacciavite perché sono così, i mammut. Qua c'ha là dietro e davanti i cereali per mettere gli spinuti. Anche davanti. Non devo vedere come è adesso. In più c'è la ventola quello lì. C'è la ventola anche dietro, si attacca quando scalda, ma a Cadigisù venivo. No, il mio, quello da 30, come accendi, parte anche la ventola, sta mandando corrente anche la ventola in funzione. E allora vuol dire che c'è qualche cosa che scalda, e c'è questo, a scaldare ce ne mette parecchio. È stato così, da quando l'ho comprato, come accendevi, che quando l'ho preso l'ho provato. Come sentivi partiva la ventola, vuol dire che è tutto combinato. E questo mio è freddo, eh. Uso Gusen da rizinco acceso, pensa un poco ed è sempre freddo. Allora, e forse che prende freddo si è freddo il tuo puro. Peggio baedo. Peggio baedo. Io ogni volta lungo la mano toccavi su da 20 ampere è caldo. Vabbè, è tutto illuminato, non c'è poco lampadine, un casino di luce va a 30. Infatti. Se da te giù, piovuto a Bacchi. No, a Sinaputi dopo. A Sinaputi l'aveva fatto. Oh, yeah. A Carasci, stasera l'ho fatta. Almeno così ti ha innaffiato tutto, ti hanno innaffiato. Sì, ma innaffiato, ma non si può entrare, ma se lo piazzare vuoi camminare tutto rotto. Oggi ne ha caricato due, vai. Pure Anzola ne ha caricato un be. No, Anzola no. Non l'ha fatto, quattro cuteggi. Immagina se era in garage. Ci ho andato a Inoca al garage a chiedere di prendere roba. E ne la vendeva. Arrivo in garage, arriva a diluvio e mi sono cacciato un po' di vivi. Quando ha caimato, lo fa via Baracqua, secondo Baracqua. Quando ha caimato mi sono buco in cammino, ci ho fatto cosa, 20 metri, via, un'altra barriata, ma mi sono venuto a casa un po' di chino. Tutta la cavola a fiori, sbarelli, il rinvava, rusemi, bassi. Come è grazia? La cavola a fiori, galleggene, che tutta a barelli, si chiede, rinvava, ruei. Copiato, mia. Sì, ti ho copiato, avevo cavolo lei qua, ha detto domani avremo anghita. No, ha giudito la cavola a fiori d'olio, campagna. No, l'hai compreso allora, che cavola a fiori, ha detto la carina, non l'hai piantato, crescentemi, io non ne pianto. E che l'hai posto broccoli. Ma manca brutto, che buon io, che buon canzoniare. A chi ha torre di broccoli di piazza, nemico, torre! Vieni bussani! Ah, ma questi già sono buoni! Vieni bussani di broccoli! Ma! Andare! Ah, sono bacchi, ti aprono la... la BDV di l'ultimo pezzo! Ti aprono! Sì, asfaltendo oggi, che mani asfaltendo, dopo arrivi da lì e se ne sono andati! E che ci rubate ne canto e bedda, radi? Quando è bella, deve fare l'ultimo pezzo e poi inaugurarla. Ma fare quel pezzo che c'è a Santa Barbara. Ah, no, è Santa Barbara, chissà cosa, dopo di tutti che rimane come in te. Se la va a raccontare un po' questa guifa che fai, la va a asfaltare, boh. Chi è l'inizio di Piani Bara, una strada, aprire l'ultimo pezzo, chi sei, ci chiedi? A Santa Barbara, dove c'è l'abrico. Sì, ma che se ne fa vita già da 5-6 anni fa, è ancora interrotta. Un pezzo l'è fatto, dopo che sei interrotto. Poi io a gente di uscire la saluta al televisore, che è rimasto l'ultimo pezzo, quel pezzo lì, da fare. Ma se ne è comodo, che arrivi a Santa Barbara per 2 secondi. Anda bene, anda. Ah, oh, che sacando. Oh. Ah, vado, faccio tempo con il bisto della Putiputi. Perché così evitavano anche il passaggio alle bello che c'è lì a Santa Orsola. Evidentemente lì faranno un ponte, un raccordo. E vivo un ponte, anche tu devi pensare quando passa il treno, sai la fila che fai? Un casino di fila. Si apparende e si assente. E io un ponte ve l'ho voluto sì, per far passare tranquilli. Già lo so, già lo so, perché quando ero travagliando i punti, a venire a pranzo, passavo dai vivi. E un po' di voi c'era un macello, allora andate a distruggere, iniziare a tutti i punti, da un piotto. E passavo il piotto, non mi sei tu, e iniziare un circolo acli, che vede ai vivi. Che ha lo circolo di Vulcano, dell'acqua, che vede che vede Scichivia, dopo pigliava da punti punti. Passavo da lì, in moto però, in macchina no, anche in macchina incrociavi un bel di macchina, devi tornare da reggio, o tu o vidu. Invece in moto passavo da lì, anche a passare dalla bretella era un casino, pure girare in moto. La stella deve fare la fila, se è morto, non si è morto deve fare la fila, che è finta. Invece che vedo Torino, scansate la stella, fai pure prima, lo sento dai ghibli, meno traffico e tutto. Avanti, si lo tocco. Ehi, già così. Adesso quel pezzo lì, bisogna deve ne fare un ponte, deve ne fare, ma non bisogna di là. Paravano, non deve fare nulla. siamo finiti col pezzo della BDV di solo e boh. Tutti buoni moruti, 500 euro per uno. Me ne danno a Messi? Mi do senza gli zeri. Io li do con gli zeri, tu con un euro, un zinco. Cinquecentesimi, se pigliate cinquecentesimi da tutti i casi, invece ne rimassessimi. Non credo che pesce lia. Pesce sì, con cinquecentesimi. L'abbiamo detto, cinquecentesimi, anche duecentesimi, va da tutti i cristiani che vivono in Sardegna. Penso che è andato, dove? A voglia. A Nepone loro sono diventato un miliardario del mondo, il primo. Minimo. Tu immaginati, due centesimi da ognuno, di tutta la gente, le anime che ci sono nell'isola sarda, e non ci mettiamo la Maddalena, là. Solo l'isola grande. Hai restato un primo miliardario al mondo. Allora perché hai contento di chiedere il centesimo a sapersi i miliardari? Avevo anni. Ehi, carico, tu dammi, carico qui. Tracca della vita e non lo avrei. Io invece mi accontento di questi bigliettoni verdi. Ma non sai che per pure la macchinetta a vari minuti, diglielo tu, Tore. Cosa? La macchinetta che conta i minuti, si ricudi 30 a secchi e ne ce li contate. Ma non ha giri questa macchinetta, se no te l'abbia brissata. Ma gli abbi da buccueo, che la posso fare. Ma la devi fare bene, me la devi fare. Catta? Mi ripucciate che fare, ne conti. Ma grazie, faccio andare alla banca popolare, veni a butti la macchinetta e te la butti a casa. Anche, come idea già è buona. Vai a barattolo smarmezzata, tutto da un centesimo, un altro da due centesimi e l'altro da cinque centesimi. Un tipo mi ha venduto una cosa e l'ha detto a poco. Sì, vai a sgana il tempo, io ti do un rischio, che c'è tre barattoli, ti ricordi, non so quanto questo. E se mi appunto, ma di te fermo così, ma se tu ieri a un mese contenti. C'erano due, i minuti l'hai dato. Ora uno, rifagli pure, contendolo pure. Ora se continuerai a fare, vedi la credenza, non ti ha imparato la metà. E poi ricordi, grazie. No, da poi di dopo. E sta pensare da contare. So, se lo puoi dedicare a te, mi ha preso penna il quaderno a segnare. Sì, no, non posso altro. Non posso altro che contare, è un quaderno. Mi sono venuto a macchina, stavo chiamati giù. Non mi narrega più a chiamati, non mi narrega più. Un guaio, se la riporti a cicottino l'ho già ricontato, già me l'ho tempo. Ehi, già ricordo, se ti li regala ne ha voglia che ricordi. Poco di tempo, io voglio che contare. Avanti, ce lo so. Cosa volere fare? Cosa volere fare? Catta, nient'altro mi si incanta. Questo coso del microfono, a me che c'hai noi ciccia? Sì, l'ho battito, invece io sono a partenza che cadendo l'UBL stasera, e faccio l'UBL in casa, chi c'è cadendo con un portatilino? Ehi, vabbè, e invece c'è questo segno di dove va aprire e guardare, a vedere, sicuramente quando l'avevo aperto, mi è scappata la molla e il coso, il distanziario. Porto male, si aggancia. Invece questo portatile mio e buttegli sulla destra, al fianco destro. La mano di brucia. L'UPL, grazie a me, la punta del PL. Non c'è commentato, è caldo, è strano. Lo cambia mai? Oh, se va freddo e si è steso un fuoco. Che va steso a fuoco? Il pannello solare. No, quando lo tieni in mano, scalda subito. Adesso lo sto mantenendo dalla batteria là sotto. A chi non che per la batteria più lungata? Ah, la batteria grossa valido. Ho visto, non è che tutto interno, non si vede nulla. Il giocattolino è minore. Ce l'ho anche così. Conservato, l'ho ritirato con lui. Da basta uno. Sto usando il GT3TP. Questo, oh, viene come canteghito, non c'è nulla, solo per la batteria. Questo è un 5R, grazie, della Baufeng. No, quello lì l'avevo venduto, quello nero della Baufeng. Però funziona, va bene anche quello. E lì ci va via pure la batteria del ricambio. E mi ha giù venduto, Baro. Ehi, l'ho giornato pure Trento. L'ho giornato Trento. Capito? Invece di Trento è un box. Ehi, ma già vanno bene tutti. Ho visto un sito cinese. Finirano i due e 26 euro li stavano vendendo. La coppia, boyfriend. E ormai se c'è un acquarato, il primo periodo erano le stelle, a pagato ti le regalano addirittura. Ah, ti capita 26 euro su 62, solo deve aspettare un mese arrivi. Regno Unito o dalla Cina? Dalla Cina, in quel sito Wish. Io pronuncio con l'altro. Non faccio muricato. Avanti, sto. Ehi, ha giocato qualche cosa a barra macchina. E mi arrivi il 9 gennaio. Il coso radio? Oh, i cosi dello sportello, quei cosi di plastica. La GVCTV mi ha giordinati. E arrivi fra a gennaio, il 9 gennaio arrivi. Addirittura, ci hai impiegato tempo là. Quelli vengono dalla Francia. Ordinato cosa mi arrivano il 9 gennaio e il 15 gennaio. Allora piace i panettoni, le bottiglie di regalo, di queste cose da stai calendarito. No, che si prendono il tempo, si prendono. Un corso che fa? In Cina, solo in Cina, Ciambani, 5 o 6 spedizioni, figurati. Allora, il cammino è lungo, ma tu sei proprio assai da vegani, ma andatore in Cina con la macchina ne arrega. Emmo, ho visto qualcosa io, e sono entrati, oggi sono entrati in Italia. Sì, è duro. E vabbè, va, la spedizione all'italiano, ti devi pulsare, va, e la poni in ordine d'arrivo. Sì, molti, c'è scritto nel coso, molti gli sono arrivati una settimana prima, gli sono arrivati. E ci sono gli iscritti, a me è arrivato prima del previsto, una settimana prima, quindi... Molte volte ti arriva anche prima, ti arriva. Sì, cos'è che ho ordinato io l'altra volta? È arrivato due giorni prima, mi è arrivato. Io aspettavo quel giorno lì, invece no, due di prima è arrivato. Ti costa più la spedizione che il coso, che i cosi costavano un euro. Quindi, pensa un poco. E non chissà se non si sciapavano, chissà se i manichetti della sportello, che apri e riservano la sportello, così. Sì, quei gancetti in plastica, e no che non si acciappano. E si acciappano di gustano più di chi si è aggiornato gustano. Infatti, anche il mio figlio di gustano, fondo, due fondo, un'altra fiera, due ore, dove è lì all'altra? Dove è l'altra fiera? No, però, piace il caso del sportello, i gancisti del sportello per la fine, no? Sono in pratica, sono tagliati. Io che c'è se non si c'è parlando di sviluppo. Su internet, 15 di sono arrivati. Siete sopra modulati tutti e due. Spicciato Graziano, no? Io le pesto le dita. Tanti, no, che in Italia un coso che abbiamo comprato l'abbiamo pagato 35 euro. Da Treviso, e la Treviso. E gli dalla Cina l'hanno pagato 4 euro. Ed è preciso identico. E tu, la tua differenza, vero? E allora, non hai compreso che compare già in Cina e sai niente. Sì, infatti, compare già in Cina e poi la vende in Italia. Questo sì, questo è già quasi al 100%. Sono a Roma, quelli che c'è un negozio a Roma, ordina dalla Cina e poi li spedisce in Italia. Senza andare assai lontano, la motosega li fa in Cina, madre in Cina, e li vende a Roma. Ehi, un amico mio si è ordinato, lui dice il spogliatore che no che buscava 190 euro, non sai quanto lui viene a costare. Cioè a cui l'ha già pagato o con PayPal 30 euro a chi è roba direttamente dalla Cina, ci invece noi passiamo via a Roma perché vedo in delizio pure né a Castro, no, non mi ammento, ma è a Roma però, proprio Roma Roma e cosa costa più di notti. Io che magari se costa 150-180 mila franchi, e chi mi costa 70-80 euro? Ti sto dicendo, c'è il sugliatore che lui ci doveva comprare qua, costa da 180-190 euro. Allora l'ha ordinato un paraguita amico mio, da chi sul sito e gli viene a costare 30 euro. E però miliardi arriva adesso a gennaio, il 15 gli arriva. Dopo preso il mese scopo, due mesi fa ho pigliato. Mi è venuto 50 euro, viaggio e tutto. Oh, la Cadini se non puoi in moto l'ho buttata a Funzane e mi hanno pigliato 70. Guarda che quando non si parte, quando lo usi che poi lo fermi, gli deve cambiare le guarnizioni del carburatore, vai alla stazione agricola, gli porti il carburatore oppure le membrane, le guarnizioni e ti ridà già tutte le guarnizioni. È dalle guarnizioni che non parte. Io al mio sono andato e mi asportano il carburatore o le membrane. E la dice cosa costa di 7-8 euro, ma dici. Dunque, appena canto di Nafuti giù. Ma dici, se non fallo, se non compare il genuco. Uno l'ha già fatto. Ma prima di farlo, mi devi dire cosa devi finire, no? A me non mi conveniva che devi finire, che ci ho pagato 50 euro. Fa 70 lo comparavo un altro nome, ma non stavano con un bici. Ma mai è fatto, mi devi pagare. E adesso vabbè, tu devi andare, non rimani più. Le membrane le ha cambiato, no? Ha fatto nulla, l'ha buttato il carburatore, ne ha dimontato e lei è andata a pigliare le membrane e sul lato l'ha piazzato e ha posto in moto. Se anche il mio ha fatto così e sono andato, gliel'ho chiesto e mi ha detto sono dalle membrane o le porti tu oppure ma di qualcuno e far prendere le uguali. E non va nulla invece sugli attori. Già sono poco lombi già. Sì, lombi. E siamo più ricchi di noi. Tu mi pensi un poco, allora, ma tu sai che ne giù quattro. A chi non dà che si quattro la appoggiano a parte. La carità ha giurito a chi sono della motosega, devo dire sugli allori, hai detto no. E abbaitami la motosega che la pone in moto, hai detto dai la pone in moto, e dalla mente l'abbaito. Anda, le torna, dopo di domani mi arriva e appunto e dona 25 euro. Nel momento per l'aereo che a casa fa via, l'indomani non parti, è specie di prima. Fatti da giurito, questo lì rimane 12, no, il capo 2 non funziona. Anche lì lo stesso, devi cambiare le membrane, perché una volta che tu la fermi e la lasci un periodo ferma, le membrane sono sottili sottili, si bruciano, i pari di nubi, ma sono bruciati, uccella. Il mio andava a pigliare la mia finuccia Osanna, l'ultima volta l'hanno pigliato e fa una motosega, mi ha mandato il mio amico, mi ha detto vai che comparete, e poi mi ha fatto pagare 15 o 18 euro. Allora se mi si sente per l'agricolo non sarebbe, allora provo ad andare io a pigliarli, voglio sperimentare. Ehi, all'agricola sassarese, vari i libri, manni, ma missioni, apre il libro, guarda nel libro, guarda la sezione, il numero, e tiri da Gesù. E Pinuccio Sanna è un ladro, furbizio un altro ladro. Andavo sempre a Ghiri, e poi uno dei figli voglio andare all'agricola sassarese, gli butto la mezza membrana di una motosega. Un bel manna, va del 40, del 45 del coso, del fiamma, so. E la voglio pulire a pulso, ovviamente mi dice, anche per gli acciambati, chiri, non ha mai funzionato. E da dietro gli acciambati, e dopo io non lo so. Ma vai, anni prima. Ci provo, tipo sì, sbagliando si impara, grazie. Ehi, tu portali le guarnizioni, non sbocchi il carburatore, mi si riporti e te li sei capricci, te li dà subito. Mi dispiace, non vedi che fa, io la giusta dai loghi, sarà due mesi fa, la giù di musa del carburatore, va di molto di più. Però poi ha detto, vabbè, stata va, non viene il balandaglia, e se la giù durata a fare in gara. Capito, però adesso lo so, se lo devo usare o lo cammino da trattare. Così sì. Avanti, signor Toro, non hai tu problemi di giambano, no? No, no, per un momento no. Per un momento non ha giù roba da punire in moto, va. A primavera punire in moto. Ma ci vuole un motore di cose, di motosega punire la bicicletta da vermi. Andiamo e andiamo, vabbè. Grazie, non si può fare. Ehi, ma a chi se si bicicletta? Si può una batteria più mannista? No, non lo stessi, il motore è fatto perché sono tutti. E tu mi poni un motore di ghisci, un motore non ci sta, la pentolina 3. Ti piacciono di ghisci, adesso è poco bomba. Ma che in alzata è un treno. Tole, mettiti il motorino così, aiuto, così la bicicletta cammina da sola. Sì, la mia che domani si può la bicicletta. La mamma è freddo, beh. A primavera ha fatto tutto canto. Oh, ma chi non l'ha vista rimane a Striscia la Notizia, a Napoli. Hanno avvisato un trucco a truccare biciclette con la pedalata assistita. C'è una levetta, schiacci la levetta e cammina quanto uno scooter. Le ha fatto vedere ieri a Striscia, non l'hai visto. Motorette piccoline. No, la bicicletta pedalata assistita. Chi si napolitani l'hanno attaccato vista una levetta e l'acceleratore. Tu chi ci dice cammina canta lo scooter. Ehi, hai fatto l'ho visto. Però non si può interattare di coso, di contrabbando. E beh, meno mano messa, per la legge, se si ferma nei gusti si dirà se si freggia. A chi cammina canto uno scooter? Per pagare bollo e assicurazione per poter la trattare. Si fa se ne paga tutti. Solo se ti la fai tu, ti la si freggia neanche l'hai mano messa. Infatti, che sì. ho visto te, Miloretta, che pieghevole, tu te le comodetai. E cammina quasi una moto a miscela, in penna di burro. A dove che ci andava in me? In cambio della mountain bike. Catta, che ti viaggio di... Se c'hai i biedami, se vuoi camminare, cammina, sennò piano piano già andrà sempre. Ma chi da camminare da sola, senza fatica? Ma così non per gusto allora. Non per gusto. Uno che è mandroni se si abbocuperà. Ehi, vabbè. Piano piano, gli affermo tutto. Attore, attore che racciare attore, voglio dire in bicicletta, che cammini un bene, buonasera. Ciao, tutti le truccate, andate un visto. Tutto bobo, sei uscito, gatto, non ti comprendo a te, no. Ti le truccate, attore, bicicletta. Oh, beh, io ce l'ho con l'acceleratore per fare la camminata di più, no, ma io non ne ho messo. Ah, ma attore la logo, è un sicchio per fare la camminata di più. Ma dopo ci sciogli e tocca a pagattina. No, no, andiamo a vedere che... così no. Ah, ti immagini, detto, a me me l'hai data, insomma, chissà che l'acceleratore, no. Però non ne metto, che se no me, se me la zappa mi la sequestreggiare, ciao, buonanotte. Te pensa così? Buonasera comunque. Ehi, vabbè. Bene, signor Bacchi. Ehi, ehi, buonasera Gian Maria, vieni ascoltarlo, vieni scusato. Avanti ancora. Buonasera, signor Bacchisio. E infatti, come sta dicendo Graziano? Catta, la bicicletta è molto... Catta, è poco cammina, le gatte. Ma va, a vai che ne faccia la stessa notizia, avrà fine che va di controllare pure i bicicletti. E va a controllare tutto. Però è una bella invenzione, questa è ottima. Io me la vai a pedalare Gesù e basta, vero Graziano? Questa si può trattare a tutte le nazzate, lo vedi? Quella va bene. Infatti sono rilassata la puoi usare, cioè, si può, ma non si può usare, perché ti fermi e ti vedi l'acceleratore sei buttito, e lo sannai, ogni male se l'attacchi, se a me le mangio io. Avanti, signor Toro! Signor Gio Maria, lasciamo le cose come ti so. Come ti sono nati? Certo, ma chi si inventa lì a cosa? A Napoli non inventa nessuna, in nessuna provincia, gatta. Tutti li inventano a Napoli, gatta. Va, pulizio, il territorio, il manubrio della bicicletta. Poi, il territorio, si lo, i curi, si sei gol, però passi. Proprio a fatta apposta, no? Magari guardi, va a dare un tocco di tocchi e non passia. Invece vedi, va a dare 3-4 colpi e passi e si impenna. Gio Mari, ma sono fatti da manina proprio per non fare, se no si scioglie tutto quanto e tocca comparare tutto da capo da bui. Sono fatti per durare quella roba lì, no, per durare 3-4 dì, dopo non servi più. Vabbè, ma è tanto le bocce, Certo, pure le motorini, l'hai visto? Mi capano i pedali, lo scooter, mi capano i pedali, certo, pure l'acceleratore, ed è uno scooter normale, capito? Senza pedalare, accelereggi, fatti che... venire ai controllanti, le mamme che vi rabbiano quando sono andate a ritirare le figure dai cura, no? Tutti gli altri si morto via, vedeva la drumata, vitti la grazia. Ciao Mari! E vicola, ciao, buonasera! E ti facendo c'hai, Gio Maria? E ti vieni dicendo c'hai? Ehi, sempre facendo, sempre facendo! E beh Gio Maria, non va bene la bicicletta a manopola, non va bene! Comunque ciao a tutti, ciao anche a Bacchisi, avanti. Se non va bene, no. Se uno vuole, se la può anche mettere. In dotazione te la danno direttamente loro, no? Però se tu se la vuoi mettere oppure no, capito? Io non le mette lì per nessuna ragione. Che te? La di coppo. A che ci fermi? Ma mi pensi di fermi e ti arricchire, e ti paghi la contravenzione. Cazzo pare, non i buoni per la legge anda sempre. E già sono comodo, adesso soprattutto. Sì, sono belle e belle, là. Avanti, Bacchisio. Io, ciao Luca, buonasera. E chiuso, quello lì sono i motorini, è un motore diverso da quelli che abbiamo noi nelle biciclette nostre, è fatto diversamente. L'acceleratore sulla bicicletta che ho io, che è Gian Maria, non si può mettere perché il motorino va solo con tanto dei giri. Invece quelli dei napoletani sono motorini truccati e sono diversamente costruiti, capito? Sì. Vabbè, quelli poi c'hanno un altro tipo di potenza, sono già fatte così, non per fare niente. Vabbè, non che esiste, non lo so. Bisogna vedere il motore come è fatto. Qualcuno sicuro riesce a modificarla. Invece di fare 30 all'ora, magari ti farà 40, 50 all'ora. Anche senza pedalare, è più importante. Avanti, grazie a... Ripeto, prendere le pastiglie. Vieni a prendere le pastiglie, riesci a vedere che da so. E ancora un pochino. E via via. E così è Gian Maria. Pedalare sempre. Ma infatti, che l'hanno data la striscia notizia. Catta, ma... donne sposate che fanno ritirare i figli, no? O la mattina li portano a scuola, sono tutti in motorino con lo scooter e sono tutti truccati, ne hanno tolto i pedali, hanno messo l'acceleratore così che non c'è bisogno, tu accelereggi e hai da cammina, capito? Anche con due persone, capito? Per dirti, no, a Napoli si mettono i ducci. Catta, non so macchino, che rifemma i libri, e poi li muovo la busta e appagherò, e quando bagano li bagano in saiente, capito? A cattasedia ad esempio, e cosa ne ribigia, rinuda a chi non vale niente. Infatti, è così proprio. Sono ingegnosi, cercano sempre di inventare che cosa. Chissà che lavoro c'è dentro quel motorino. Senz'altro sono ingranaggi più piccoli, più potenti, boh. E ha avuto aperto con la cena. Per carità, che a tutte le fette, ragazzi, a rifette a tutte. E come te, fatti in Italia, no. L'ubrimo che si rimbezza a fatti la legge, cazzo, che sei chili, cazzo. Fatta lei si è trovato l'inganno e tira davanti. E la sta andare, cosa può fare? Signore! Ma signore è sceso dalla serie, avi, ma chi? Si è parato, signore, la televisione c'è poi i denti. Capito? L'altro giorno hai visto che c'era una notizia, il contrabbando delle sigarette napoletane. Invece se le sigarette dentro al pacchetto erano 6 chiodi di 10 centimetri in acciaio, infilati in un polistirolo. E cosa facevano? Io ho preso di un pacchetto di sigarette, no? E invece di corso di essere sigarette c'erano chiodi. L'ho fatto per anche ieri sera, già li ho visti già. E faccio in vera regione. Catta, li prendevo su strada, catta. Catta, hai visto chi si prende dei cibori? Ah, lì l'ha messo tutti i bacchetti, tutti quei giorni. Ma è duca che uno vada a prendere una sacca di sigarette, catta, c'è poi attaccati i giorni. Mi rifletto davvero a Napoli, Ragazzi, vi interrompo. Io sto andando a prendere la signora, ci sentiamo dopo se faccio in tempo, ok? Magari dopo. Ciao Otto, mi raccomando, è mica prendeva, biglia di rabbaracco, è l'impermeabile. Questi valoni. Niente. E allora, ma chi? Oggi già ne è cuttueva, già ne è immaginato. Ma come ti fa a passare il mezzo, la terra? Non saranno? Almeno l'ha girato un po' con la motozappa, vedi, questa budina. L'ha girata, ha detto che la rovente era così asciutta, domani può andare girata. Oggi invece faceva a due mani la lampadeva. non si piglia più ragione, le cose, la maglia pensione al tempo, tre giornate di sole, quindi è che sole, diventa un garascio quello sole. È male se mandenti, troppa acqua adesso, adesso passa, passa, ma passa proprio, se no non riusciamo a fare nulla. Poi il garanzo, sai, sono succedenti a un marito, tu ne accogli peggio, l'Washington pegava a volo. Mi accogli, anda a freddo e bisogna arrivare in M30, tutto pieno di vermi. Sai come. Purtroppo, domani è buono, domani è come ti oggi, ma te, forse è peggio domani. Catta, ma chi, cosa vuoi fare? Comanda se favore, per cui, quasi come ti piace, non la vesette di leva, catta. Mi leva e va, e arriva, va, va, che non ti vuoi, tu sei per la male, per lì. Cato, mi vuoi, non la fa, si leva. Io dico yogi, lasci io che affendi, io che non affendi, per carità. Avanti, grazie. 60 via, già pensiamo. Luca, avanti. Ma, quando è troppo, oggi ne ha fatto un bel. Ehi, signora, mi ero facendo una l'ecografia da risicolo, lo cazzo di chi per tirare, il gioco è uscito, era di Lufieni, e chi ti racconta per tutte per altare sportello leva capita per la ragazza, tutta la gadduina, beh immagina. O se c'è mancante, che sta andando a piano, no, correndo si faceva la beffa, cazzo. Mi fa un dia di buro russo, a chi dopo che mi viene la gonza, mi fa la saleva della patriarca di Sassari. E i dombini sono tutti intasati, e corre sempre leva. E dopo che andava a sciapire la pianura, ne basta ne proprio a far lavare la macchina, o fate. E così no, io vi piace Giovanni Pascoli, in Giare Sicilia, io non ti dico niente, vi piace Giovanni Pascoli per la rotonda, me ne fa la libra, lo bunker, da lì sopra, ma io sono di Bussoli, si gira di là, non si può dare manco camminare in macchina, catta, viene da poco macchina e ferma, chi, è vero un film in piena vera, se puoi immaginare, e la cosa era bella ancora, Santa Maria, tutta la gatto era. Fatti ma guarda un po', domani saluti e domani è la stessa cosa, cosa vuoi fare, ma chi? Io ho fatto molto zappare, poi non è molto zappare, devo dargli la prima lemma, però si lava la solita dopo le feste. Taglio una lemma, dopo voi si fa la macchina due o tre di buono, quindi ho quadrillata, se no, che tu tempo, quando è asciutta, ma chi? Infatti, io non ci posso quadrillata, le mani, questa budina, ma poi la pizza, che non è un'idea. Solo che ai sistemi a far buono, a girarla sempre più, va da crescita sempre. A far tua va e torna a crescere. Quando fa il tempo buono, va già fa. Non prende il tempo, ma un anno si sta toccando ancora. Marcello, purtroppo in che periodo lo sappiamo che il mio come ci sono, siamo di ferro, ma chi è per cui che ci sbempi così infatti, anzi noi non ci possiamo da metà, e la Tiroghi come sta la grande, per grande la neve ed è peggio ancora, noi grazie a Dio abbiamo un problema e basta. Però problema che ha troppi troppi è già buono. Avali, i vaccini sono pieni. La terra ne ha le balle in terra proprio, non ne può più, tu la vedi che lei va camminando, non so cosa galleggia. Quando mi moria che stava in il chilo non ne faceva un botteggio, era la mia bocca poi asciutta. Avani non sapeva neppure nulla. I vaccini sono pieni, tutti sono pieni e adesso sono appena a mare. Da voi apre si scusi a mare di quella e lì sì facciamo male noi perché rimaniamo senza ma fatele così sempre ma chi? Che pericoloso i rinfasi sono troppo pieni allora sono fendi fuori a pura allora poi tendiamo a fare troppo e rimaniamo senza ma andiamo a comprarla. È tutto un giro di di Ciacià e un giro tutto di Ciacià e Bacchì. Basta fare, lei fa, se non comparente, fa mangiare, fa fare fa, fa, fa, fa, fa qualcosa, fa qui, a chi c'è un rubinetto è marrone. Ah, è un rubinetto no, siamo da un mezz'anno che non li trattiamo noi. Non si può trattare. Ma perché fai a trattare a così lo saranno? Oh, ma chi? È tutto fango, ogni tanto, se mi ogni tanto noi ne vogliamo un po' che la vasca, no? Non si sa mai chi cappia, siamo sempre, ogni tanto manca reba, no? Allora cerchiamo di pulire un po' che la vasca e ammutare qualche cosa, ma un malumagno, no? Ma è terra! Diventa gialla pure la vasca da base, la bianca. Io non so come che terra sia, esci marrone. Allora, la chieda passata era, in mancata leva, dopo la rivita. Era l'una di notte, ci ha aperto un rubinetto. Allora, densa, terra densa, proprio ciaggata era il tema. Per carità, a che punto siamo arrivati, gatta? Forse a chi cazzo avevano tutti i dubbi marci, frasichi, così che con 30 anni sono stati fatti, che si cala di affatti, Mussolini infatti che si condotti così, e ormai sono mezzani, sono frasichi, bisogna fare tutti gli impianti nuovi, a chi tu accorsi no che si faccia da voi a Pia Daranzi, e sono sempre così, sta purendi, e sto prendi di guasti che di quasi che acconsi. Infatti. Ma no, che la tirotti a giudice non siamo in dei dubbi, però sono poi in dei dubbi nubi, va. Ma, boh, grazie. Dimmi. E chi per i dubbi nubi, boh, si firami. E il stradone era nel buono. Tutti i bocci, io che pure tutti quanti i piccoli, i chili, un di ferro la macchina, tutti gli ero che prendere tutti i dubbi nuovi. Ma speriamo che da voi avevo anche io che avere l'ema frequente, gatta. Se no dai fedeli sì, abbiamo sempre l'ema a razionata e poi quando bene tutto fango, per carità, ma chi? Infatti, bisogna avere sempre la scorta, io che ho sempre i bidoni pieni, le cose che manca, ma manco per lavarti le mani e lavarti la faccia come intragliata. Oh, io già c'ho salvato io sempre, e chi ci dice è mancata, così di seguito ho usato il salvatoio, e la valigia è pieno dopo, ma quando vieni c'è un rubinetto, la capettura ci viene a rasura e ce l'ho sempre, ce l'ho da 500 litri e fanno in manuia sta bassa e però lo stesso non i piccoli, cioè la trattiamo a cucinare pulizia anche se c'è il filtro, non è uso, usiamo le bottiglie. E come fai a usare a cucinare con la roba, capito? Ma grazie, non è possibile, no, si usa. No, si può usare, è tutta inquinata, diceva, ma può fare di sì. No, no, noi non la siamo comprese. Noi ma cucinare la compriamo, ma così che fa via ma cucinare. Scatta, oh, gira, ma come alla macchina, che hanno la macchina, la faccia, se ci vuoi, magari pare fare il debulito, o tanto altro deve fare la ruggina, e ti brutta pure la faccia. La giugna a battere un filtro 2 mesi fa, si lo vedi a chi ci vedi, no, un filtro. E mi filtra l'acqua quando entra nel serbatoio e anche quando la prelevo. E me la filtra 2 volte. Adesso che a colori è niente carbonizzato, basta. Lo tiravi chi sera. E il filtro è grande, mi è grosso pure quel filtro che ho messo. 7 euro un gufo. Allora ti ho parlato un altro, la che l'ha passata. A chi 2 mesi fa la giusciamo? E chi se ne è colornita? Beh, uno che mette il serbatoio è già tutta la stessa cosa, Io purtroppo il serbatoio, sì, ma a a Viagra sempre di venire a toccare il muro, però non faccio poco, faccio troppo roba in magazzino, come ci fai? Non pizzarsi, capito? Tocca la pazzi tutto, come ci fai? La roba che non si molla fa. E non faccio roba, se no me l'abbia ammiazzato, ho lasciato un tracuglio, pure abbia fatto le cose in grazia di Dio, ma come ci fai? Purtroppo. E tu a filare ci sono battuto io, ma chi? Il vero lupo è pulito, ma non l'ho mai fatto. A più senti bene, io un serbatoio, quando arriverevo a sentra, era brutta, non sentra, non c'era niente, non sentra il serbatoio. E poi il serbatoio si comincia a punire, la battina di un fango, e via, via, via. Tiravi, era brutta sempre. No, io ogni anno lo pulisco, lo svuoto e lo pulisco dentro, il serbatoio. C'è un prodotto che vende lo stesso lì, lo compro, glielo metto e la pulisco bene e lì cambio il filtro ed è pulita l'eva. Solo che i filtrelli navali, i CD, che hanno fatto sui travagli, devo tornare già a baro un filtro, ancora non bruciamo un baro, anche ancora è brutta, sennò ne devo già a baro uno ogni a due mesi. E costa 7 euro. Sì, sì, grazie, mi lascia morire spesso. Se no, leva che sempre brutta. E così c'è lo scaldabagno. Leva lo scaldabagno, quando arrivi leva brutta. Se tu hai prelevato, leva calda. Se entrare la fredda e ne fa la calda. E se tu hai un garraggio, e comincia a fare deposito, non è caldo di più, se ne serve in esame. Lo scaldabagno, lo sai cosa ti fa? Ti brucia la serpentina della resistenza a 30 e comincia a cargare più poco. E da poi sotto si fa il fondo e si buca lo scaldabagno, capito? Fa tutto a posto, cioè è tutto un giro, è tutto un giro di soldi. Io la chiamo durante due anni. Chi stava sotto i segni elettronici, è elettronico questo scaldabagno. Il coso è porcellanato, ma dici se gli fanno così adesso, è melodia, 250 euro a giubbagato. Però me l'ha portato e me l'ha piazzato anche, l'Ariston. E chi è questo qua? All'Ariston, a Predaneta, ho telefonato da qua. E mi ha detto, vengo, glielo piazzo 250 e fai usci da 80 litri. E giù se mi la regate e me la piazzo a Dubuio, si sta portando rovescio. Si sta portando rovescio. Si sta portando rovescio. Ehi, si sta portando rovescio, ma poi tu, siccome tutti mi ha piazzato, e giù tu, mi ha messo di Cristiano, l'ha stato variato in un giocattolino. Cazzo, io quando la trovo mi inizia la ciccia e chi tu l'ha fatto come te nuda? Pratico è Graziano, la pratica vale più della busta, capito? E così già morì. Già li ho sempre cambiati io gli scaldabagni, ma raggiunti ma li ha soffisanti. Quello lì va bene, di me ne va via via, lo credo. L'ha fatto così, poi era per il giovanotto, ci hanno avviato in busta. Quando è un buco di giovane, gli ha minacciato il giudice. Ma va a picciaglia, un po' con pesantucci mi danno i vinelli. Comincia a pesare, comincia a pesare la cosa. No, io viaggio minore, ho piazzato più a 80 litri, ma non ci butto uno a 50 litri. È più facile che cavalmino, più di te e tutto. Ehi, avanti Giovanni. Ehi, grazie, mi devo assentare. Che devo aiutare la signorina qua a tagliare qualche cosa. Così che mi devo aspettare eventualmente e rientro dopo, dai, se mi sbrigo subito. Riprendete voi, dai. Ma chi riprendi tu, già rientro dopo. Sì, Giovanni, attendi pure, saluta la signora, a dopo. Avanti, grazie. Ehi, adesso chiuso là, che devo fare cosa? Ce la sentiamo a domani. Ok, ciao Gian Maria, ciao Luca se sei in ascolto, ciao a tutti se sei in ascolto, ciao Bacchini, a domani. Signori, ciao Grazia, buona serata, saluta la signora, buona cena, a domani se tutto coincide. Bene bene, ciao ancora a tutti. Ciao Bacchini, mi devo pigiare la carica di pigliato, un po' fisso, l'agnone, lo voglio mettere nel fossetto, va, ciao. Ciao Grazia, ciao, sei attento al fossetto, non io puoi salvare le viti. Buonasera, siamo da Chisio. Ciao Marino, buonasera. Buonasera Reggio Maria, ci saluta il signore, ciao grazie per il servizio e buonasera anche per te, avanti da chi? Sì, è Marino, è una bomba sta arrivando qua. Sei tutto sparato, cosa sei? Sto facendo ti sei messo. Mi sono messo sopra la sedia, da chi? Sopra la sedia mi sono messo, tutto qua. Dopo diciamo, da Chisio! Non ho capito, sono una motivazione, chi è che vuole, ha detto qualcosa? Franzi, chi vuole entrare? Oh, yeah, per carizia. Luca, Oh, io prima non ero io, Chi c'è perché? Chi no, Luca? Chi c'è, Marino? Ciao, Marino! Boh, no, non mi sente. Ma arrivi disparato. Marino, lo senti a Luca? Negativo, ciao Luca, ben sentito, non posso dire che non ti ho sentito, vedo lei che mi si accende una modulazione 0.0. Sto dicendo Bacchino, acqua ne avete voi? Acqua sì che c'è adesso. E stamattina? Lo stesso, via c'era l'acqua stamattina. Via, l'acqua c'era stamattina. Sì, ma non è che sia tanta, è un po'. Adesso è un po' diminuita, un po' meno pressione però c'è. Qui andata via verso le 4:30, abbiamo chiamato, mi diceva un guasto, ha chiamato poche anche mia figlia, mi avevano detto che hanno aperto, ma si è ancora anche di nulla, boh, speriamo che arrivi veloce, bene, avanti da qui. Sì, già in discesa la terra arriva prima di tutti, capito? E noi l'avevamo la settimana scorsa senza acqua, due giorni, adesso c'è, sporca ma c'è. Adesso mi tocca aprire il binetto di fuori, ovviamente, per fare scendere un po' di fango. Fango pagato e ripagato, non è capito? Si fa pagare come loro il sacco della tavola della banola. Di avere ripresa la banola le cose. E io c'è un altro, io tu, se non riesco a sentato, passiamo che Antonia, Tore c'era o va qui. Poi è andato a prendere la signora, dovrebbe rientrare adesso. Luca c'è, ma non ascolti tu a Luca? No, negativo, mi si accende il LED quando stiamo modulando, ma la modulazione io non l'ascolto, non lo so perché. L'altro giorno non ascoltavo, oggi nulla. Adesso vediamo se ti ascolta. Luca, lo ascolti tu a Marino? Lo ascolto, se lo lascio sopra il letto, le portate, altrimenti non lo sento. Aiù, spegnete il PMR tutti quanti. Giulio, buonasera Giulio. Capito Marì, se si mette sul letto non ti ascolta. Dire a Luca negativo, di scendere a letto si fa la notte, va bene, io vado delle ore. Buonasera signor Giulio, avanti. Ciao Marino, Luca e Bacchisio, buona serata, avanti. Arrivi tutto sparato come al solito, ti passo Bacchisio, avanti Bacchisio del signor Giulio. Via via, salutiamo signor Giulio, buonasera Giulio, ben ascoltato. E Marino è tutto pompato stasera, si è messo sotto la sedia, non sopra, sotto. Avanti Luca. Luca è caduto sotto il letto, è finito. Sopra il letto è andato Luca per modulare, capito? L'antennino l'ha messo sopra il letto. E allora giù, ci piova a quelle parti? Sì, tutta la serata sta piovendo, anche stamattina un po'. Dunque, ma d'altronde il meteo ci aveva già avvisato. Domani piove, aveva detto ieri, e dunque ha piovuto. È di parola al meteo. Io ho visto quello di Rai 3, l'altro avantieri. Oggi doveva avere sole, oggi tre giorni di sole, invece bugiardo, oggi fateva. lo so, purtroppo è così. Così aveva detto, in effetti hai ragione, aveva detto proprio così. Si vede che quello lì era ancora un po' stanco e allora se ne è voluto uscire alla svelta e ci ha illuso tutti quanti. Via, Marino, avanti. In questo momento sta diluviando qua, in questa zona qua, in questo momento. Qui a momenti, mezz'ora fa non c'era nulla. Stasera stava facendo fitta fitta, poi è aumentato, poi ha calmato, adesso in questo momento sta diluviando, boh, tipo qualche nuvolo fantoso, vero giù. Sarà così, e cosa ne so? Sarà così, Marino. E cosa ci vuoi fare? Vabbè dai, lo sappiamo. Siamo in autunno e dunque è giusto anche che piova. Però se non piove meglio. Spero, ma chi? Giù, adesso basta, cara. Abbiamo le tasche piene quest'acqua. Ci vuole un po' di sole, un po' di tempo bello. E acqua stasera ce l'ha fatto. Grazie a Dio non c'è da lamentarsi. Abbastanza. Ma è fatto a putichino, da garage a qua l'ho fatto a putichino. Sono andato da qui di Maria a garage a prendere un attrezzo, se non prego non stava piovendo, arrivo in garage, via acqua al nastro, ho aspettato, è passata la nuvola, mi mettono in strada, quando sono arrivato all'altezza di Biosa, apre il cielo, avevo fatto a putichina per andare via a casa, a due mani. Non c'è una chiesa dello bianco, adesso non guarda, è là fuori, ho andato a mangiare il cane e non stavo nulla. Adesso sono dentro e sta dello bianco, boh, ho detto. Domani mattina quando esco dal lavoro vado con un po' di riso e me lo pianto. Ciò che sta bene è una risaia, guarda, una risaia. Tu sei, vai, va un fiume e vai, avanti giù. Ok, vabbè, purtroppo è così, cosa ci vogliamo fare? Ossia che possiamo cambiarla, oh, Ha ragione il tempo, fa quello che vuole, basta. Ma chi? Piosa che sarebbe? Quello della ferramenta? Sì, io, quello della ferramenta. Ah, ho capito. Marco mi sembra che si chiama, io. Simpatico mi. Pacchere dai. Sì, Marco Piosa, che lavorava da coso? Che si chiama quello lì? Palmieri, da questo. Un momento come si chiamava Luigi, da Palmieri praticamente, quando era al monte dove il banco di popolari adesso, capito? E intanto sta sempre lavorando, tu vai a prendere la roba, a tre volte della cirurgia. E infatti io mi sono andato una volta, quando mi sono preso non mi sono più entrato, ma che carriera mi sono passato più, ma che dai, oh ya, yeah. Già lo so, lavorava la famiglia, ma famiglia l'ha dato il ben servito, vai dimmi, avviati, che era un po' che trafuttente, un po' mancante. Dai, avanti giù. Però Palmieri poi l'ha mandato via perché lui era un po' stravagante, capito? Poi non è un bel convinto, già lo sai, già lo conosci bene. C'è una convinzione che oggi è peggio di più, ma è una panacea quel negozio qua. Lui sa bene perché il negozio è suo, diciamo, la casa di costruire, non paga affitto. Ha caricato un bel po' di soldi ai genitori e così via, dunque, e ha caricato un bel po' di materiale. So che ha aperto, so che c'è un capannone anche per la niente, figurati. Avanti, avanti, da chi? Sì, su, veniamo, non sono suoi, sono del padre suoi. Lui dice non può vedere anche mutande indosso, perché scopre se le mutande le prendono. Adesso ha comprato due macchine. Una BMW da 40.000 euro al figlio. Lui si è comprato una Jaguar, fuori strada Jaguar, dice costa 75.000 euro. E chiede ad Andrea Ciclamenti, quando tu alla sera vai a comprare la roba, ti fa lo scontrino 5 persone, 3 persone. Boh, non lo so. Già fanno i controlli, Dove fanno i controlli, spiegati, non preoccupate, non lo so, domani, ma dopo domani già fanno i controlli. E vabbè, però se c'è una macchina da chi le usa come cosa, macchina da, come si chiama? a tentare, ho preso, magari stai caendo da quanto e vengono a tirarti davanti a te. Ok, già arriva il conto anche per lui, non ti preoccupare, il conto anche per lui arriva, illusioni e poco uno non fa se non macumi, per carità, vedrai che prima o poi anche per lui arriva il conto, macchina. Arriva il conto, macchine di lusso, donne qua e donne là, capito? E i soldi ci sono, però sono del padre i soldi. Non sono i suoi, sono del padre, così hanno detto in giro qua, si sente dire, che lui non c'ha niente, sono tutti roba del padre. Vabbè, da qui, non c'è niente, il padre è un padre, è sempre suo, il padre lui sta usando, e tanto le trasferisce, il padre c'è una bella villetta, se non sbaglio abita a Sant'Orso al padre, se non sbaglio, non viene da qui. Anche lui c'ha la villetta a Sant'Orso. Dice che ha una villa da 180 metri quadri, giardino, roba varia, così il padre. Ci fa un tipo che conosco, che lavorava con Marco Biondi, Marco Pigna, lavagista, va a fare i lavori, a pitturare le serrande, a pitturare il giardino, roba varia, e gli dà 10 euro al giorno. Ma manco guarda, non ce la fa per fare un dato, la 10 euro al giorno. Ma vabbè, questa gente fine anni non paga, non capito? Meschino, sono altro, avanti lì. Chi so avrà più debiti di Edu che per in capo, sicuramente, guarda. Uno che fa così, Vabbè, il negozio di pagamento già è un negozio che rende, però deve stare molto attento, mio. Altro che Edu, si disubisce con la baracca a bete e triccia triccia. Vai, bacchino. Sì, ma... Fammi questo tipo qua. Gli ho detto, ma cosa ci vai a fare? Dice, almeno i soldi per mangiare, dice, mi dà 10 euro, mi compro il pane. Dice, se non ci vado a fare quello, dice, cosa voglio, di fammi. Oh, si accontenta di 10 euro, ha detto, basta fatemi dare di più, sennò per fare questo voglio 50 euro, per fare questo voglio 100. Invece no, lo chiama giornata, otto giorno lì. A pitturare, a fare, a pulire il negozio, a lavare la macchina, 10 euro. Ma poi fate un brutto di palazzo lì. Magari da chi non lo dà neanche un bicchiere d'acqua, neanche una cuffia di manco panino, non si è. Nulla lì, nulla. Infatti gli dico, Federico, manca di questi cazzi lo fa se va. E gli dico, ma non come compare il giovanino, siccome questo va se fatto la moglie. E viva da solo. E dice, ma come compare il giovanino. Ma è proprio la emozione, proprio. Io prima di vita ti dissommo, può fare un uomo tutto particolare, tutto pirocchioso come altro, secca, guarda, le persone fanno anche schifo, avanti di te. Oh, sono rientrato, buonasera. Ehi, ciao tu, oggi sei in ritardo comunque, gliela mettiamo una multa a Bacchì, a Tore, perché è in ritardo. Vuoi, deve pagare del caffè a tutti. Domani il caffè a tutti, non fare come la persona che stiamo parlando adesso, Tu non sei legna verde, tu sei legna proprio secca. Vabbè, saggio, legna secca, avanza. Ma lo sai dove ero, sono rientrato adesso. Catta, non si può andare nessun luogo allora. Ma te la storia mi hai sentito pure a testa. Avanti giù. Tore aveva la cosa da fare stasera. È andato a fare la spesa per il Natale, porcetti, agnelli, gamberoni, di tutto, vero Tore? No, sono andato, ero qua fino a 20 minuti fa, ero qua e sono uscito a prendere la signora e sono rientrato. Cazzo, avete dato il tempo, no? Ah, beh, certo. certo, sempre la famiglia, sempre davanti a tutto e a tutti. Ci mancherebbe altro. Avanti, Bacchì. Sì, non è... A Femminucce se ne è andato, Giulio, capito? Se è andato a Femminucce. Ha preso i righi, Tore. Sì. Vedrai, le pestiamo le dita, le pestiamo. Avanti, Marino. Tore, farà bravo, che ormai sei vecchio, Tore. Che cose non le puoi fare, avanti Tore. Ma il portatile, sì. Ho già detto, Tore? Sì, con il portatile. Cazzo, dentro a malapena, intendo. Allora, mi sono messo anche sopra la sedia, da chi se mi sente bene, mi ha detto? Tu non mi senti, non lo so io, boh. Dov'è dove stai invecchiando, Tore? Tu stai invecchiando, tutta assieme. No, ma non ascolti a Marino. In mezzo al quarremme l'ascolto, in mezzo al quarremme, boh. Strano, a me mi arriva a fondo scala, una bomba. Ha dovuto abbassare il volume perché quando parla Marino mi fa disordine. È troppo forte. E Giulio lo stesso. Tu invece sei più basso di loro due. Boh, non lo so, sarà colpa dell'antenna che sarà infusa. Questa sabbia è asciutta, la poni a balacqua, non è così giù. È quello che dico anch'io, se non ti fai un po' qua va la freddo, si cade, al manco funziona meglio. No, pensavo che non mi sentivi, mi bacchi. Caspita, mi stavo già preoccupando, stavo già andando a comprare un altro nuovo per Natale. E infatti, fai così, comprami un altro, una dozzina. Così che deve fare. No, strano, Tole è basso, non so che apparato sto usando. Cosa stai usando, Tole? Quello veicolare sto usando. Quello che c'ho sempre, quello piccolo gemello al tuo. Ma stasera sei basso però. Sei basso, sì. Confronta Giulio e Marino. Tu sei a metà. Sicuramente dovrò far scaricare il cavo dallo statico. Se ne è su. No, è quello oppure che l'antenna ha preso acqua. Sicuramente sì. È entrata acqua nell'antenna. Perché quello lì, il nostro isolante si era mollato con un'infiltrazione d'acqua, tutto il giorno acqua. E che cosa è entrata? E l'altra piccolina perché non colleghi? Ci devo salire sul tetto adesso, ma che è tutto infuso, asso così provvisoriamente. Dentro la soffitta la metti, dentro la soffitta la lasci. Non funziona così dentro la soffitta. Funziona, stai tranquillo che funziona. Sì, aggiudivarà un altro cavo, aggiudivarà. Ah, un altro cavo deve scendere. Dentro la soffitta dico funziona come se fosse fuori, perché sei in alto. Non è così, Giulio? Eh beh sì, dovrebbe funzionare, sì. Io perlomeno funziona il mio da dentro casa e non sono in soffitta, sono nella zona notte, c'è un piano sotto. Per cui non lo so. È sempre una questione di posizione, questa frequenza è maledetta e se uno è fortunato, ad esempio come me, che ho trovato il banco buono, non riesco a farmi sentire da tutti e ascolto tutti. Diversamente se c'è un piccolo ostacolo può diventare un problema. Pazienza, e cosa vuoi fare? Avanti Maria, a te ti intendo a bomba comunque Maria. Io sto usando il suo basilino che mi ha fatto battere e sono dentro casa, sono giù, nel piano di sotto e l'antenina è poggiata in terra, lo stesso. E certo, se mi sposto appena, sposto per l'antenna nessuno mi sente. Però ho centrato come hai fatto tu e che così io non mi posso lamentare. Avanti da qui. Ehi, infatti non arrivi bene, benissimo arrivi. Anch'io sto usando con l'antennino come il tuo. Sto usando quell'antennino lì, il fratello. E c'era anche Tole con l'antenna lì, però Tole mandrò una piazzalla. Io ce l'ho, io sono sciocco adesso, ce l'ho appoggiata proprio sul pavimento, con i tre piedi, no? E basta. Immaginati un po'. Se la metti in alto dove l'altra esce ancora più forte. Non è così, Giulio? Beh, l'altezza è fondamentale, soprattutto per questa frequenza che appunto tende gli ostacoli, per cui è sempre meglio campo libero dappertutto e dunque l'antenna sul tetto ha più campo libero, non ci sono dubbi. Ad ogni modo, no, ma io già lo sento bene, attore, è la verità, non problemi, non ne ho ne ad ascoltarlo, lo sento benissimo. Avanti, Tore. Già a farmi sentire già mi faccio sentire, però se qualche cosa è bagnata, ha filtrato acqua nell'antenna sicuramente, non lo so, o devo scaricare questo coso di statico, E devi scaricare dalla finestra, prova a aprire la finestra, se non so, e scaricare. Se si fuggi. No, prendi la busta, devi aprire la finestra, devi prendere la busta, e le buste del cassonetto, no, dell'umido. Ma ma dopo tu pigli la cosa domani. No, io... Ci vuole poco a scaricarlo, prendi un cacciavite, gli fai fare la massa e sei a terra. E le catastrofiche se sono andate. No, ma da chi? Ho capito, scusa. Ma di una cosa, a Graziano, a Tolle, stavo dicendo. Dici c'è onde statiche. Prendi un cacciavite, fa fare massa, caldo freddo e scarica. Sì, vabbè. Dai, glielo faccio appanare tutto freddo. Ehi, ehi, fa quando è freddo. Al freddo glielo fa Giulio. Ehi, e allora? Che attentina. Babbo, comunque, dipende anche dalla portata che uno ha, eh. Bisogna vedere che portatilino sta usando. Io ho il GT3 TP, motore, il mio è quello con le fiancate gialle, portatilino da 30 euro, non più di 30 euro, però funziona bene e ce l'ho già un paio d'anni, per cui va benissimo, molto molto bene. Beh, a dire la verità ne ho anche un altro, però l'altro è diverso ancora, l'altro è tutto nero. Poi l'avevamo comprato, ma quello non è andato a buon fine, però già funziona bene lo stesso, la verità. Tant'è vero che un giorno mi sono trovato a Pedanieta e ho incominciato a parlare con Gio Maria e ho fatto tutto il giro di Sassari e mi sentiva sempre e lo sentivo sempre. Anche con questo, nonostante che modulavo da dentro la macchina mentre guidavo. Esci bene, sta uscendo bene tu. Ma io sto usando un buon frame, questo qui è il 5R della Baufeng, ce l'ho già un 3 o 4 anni questo qui, mi ha portato mio cugino da Torino, però sempre roba cinese, non so, non è roba italiana. Poi l'altro invece è un Baufeng, e l'altro poi, come quello che sta usando Torre adesso, ce l'ho su, e quello che sta usando Torre è da 5 watt, però 5 watt non ci sono da Torre. Perché tu arrivi sparato, Marino arriva sparato, Tore è in mezzo, lo sento sì, però è basso, non è come gli altri giorni, purtroppo per la pompante. Però io scusate, io vi saluto che c'è mio nipote che mi sta chiamando, ciao Giulio, ben sentito, ciao Tore, ciao Bacchisio, anche per te sono tu in casa. Ci sentiamo domani se coincide, ok, avanti Bacchisio. Ok Marino, ciao, salutissimi, buona serata, saluta il Correa familiare, a domani. Avanti Tore. Ciao Marino, stammi bene, sentiamo le prossime, ok, ciao. Te prendi Giulio. Ok, ciao Marino, alle prossime, dai. Grazie per la chiacchieratina, ci sentiamo. Ciao, a domani magari se coincide. Ok, sì, è così, ho Bacchisio e Tore, io ripeto, ho questo, ce l'ho già un paio d'anni e devo dire che va bene, con il suo antennino tranquillamente, solo che c'è un problema, devo modulare per forza da questa posizione dove sono adesso, se mi sposto appena appena, anche di poco, anche di un metro e mezzo, allora incomincia il QRM, sì, è in ascolto che in trasmissione. Mentre invece io ormai ho studiato tutte le posizioni della casa qua, dove da dove esce meglio, e quando devo usare il PMR mi metto lì, mi metto e so che mi sentono. E allo stesso tempo riesco a sentire anch'io. Avanti Bacchi. Non arrivi sparato, vabbè che siamo vicini, non è che sia una distanza così enorme. Siamo vicini, però riesci abbastanza bene, non ci sono problemi. Tore è lo stesso, con Tore siamo vicini lo stesso, anche Tore dovrebbe essere più vicino di me, qualche metro, non di più, che un'altezza siamo quell'altezza lì, tutti e due. Avanti Tore. Sì, va benissimo. Ma adesso bene sto uscendo, sì? Sì, adesso sto uscendo bene. E allora, il coso del microfono che era appena fuori, forse era da quello lì. Ah, allora il microfono tuo che è sballato. No, secondo quanto lo tiro, no, non va. Ma sto uscendo bene, ti ascolto come le altre sere, forte. Ma papà è che devo alzare il volume perché è in basso. allora come tiro il cavo se ne esce fuori. Quelle, perché c'è quello in piazza a baionetta come, cosa, come il telefono. Sì, infatti, quello lì. Se lo tiro non va. E spingilo, prendilo e spingilo di più in fondo. Perché il gommino che c'è fuori non lo fa entrare, allora devi cercare di infilarcelo. Lo fa anche il mio con l'effetto lì. Infatti adesso ce l'ho spinto e adesso sta funzionando bene. Non è così Giulio, lo senti bene adesso? Sì che lo sento bene, ma lo sentivo bene anche prima. Anche prima lo sentivo bene, ho problemi, non avevo io nell'ascoltarlo. Io di microfoni ne ho due, uno è normale, è manuale, no? E l'altro invece è quello a auricolare, anche quello in questo apparecchietto. No, devo dire che va bene, naturalmente quelli erano stati completi a parte, no? Non quello auricolare, l'altro, quello lì è stato preso a parte, ma una cosa mi sembra che costava 5 euro, buono. una cosa da niente. Ma preferisco utilizzare il portatilino così direttamente, parlo direttamente dal portatile. Questo poi ha la luce, c'è la luce e c'è anche la radio FM. Sì, anche questo c'è la luce, c'è la luce fissa, ho luce intermittenza e la radio. Solo FM. Sì, anche questo è così, anche questo. E devo dire che la radio si sente anche molto bene, bella, una bella modulazione, pulita, è anche molto forte come volume, per cui prende tutte le stazioni della modulazione di frequenza. Avanti tu. Sì, già va bene, no? Questo qua già è buono come cosa. Io non ne attacco portatile che non tocca stare grugoso in mano e invece di su, ma il microfono e funziona così. Solo che avevo preso la batteria rimpostata, perché la sua batteria originale era di 1800 mAh, mentre invece poi a parte ne ho preso una che ha 3800 mAh. Questa già dura molto, l'altra la sua si scarica subito, in pochi colpi importanti si scarica la sua originale. Questa invece dura tutto il giorno. Avanti Bacchi. No, questa è l'originale, adesso è tutta la sera che sto parlando, e adesso sto guardando, è arrivato quasi a metà è arrivato. Dunque, un po' troppo di giri e poi se ne va a dormire anche lei, capito? Beh, certo, ma è così, sono piccoline, siccome quando trasmetti te la lascio in ascolto, dura molto, e caspita, se dura molto me l'ho lasciato acceso durante la notte e all'indomani era sempre bello pimpante. Però se moduli, se lo usi a trasmettere, allora la questione è diversa, perché consuma molto così. Avanti tu. Infatti, no, quello che ho io, il portatile dura parecchio, dura. Già dura molto la batteria di quello che ho io. In stand-by rimane, mi pare, tutta la lira, in domani buru. Sì, te lo sto dicendo, io mi ricordo, me l'avevo anche dimenticata, anche da poco me l'avevo dimenticata acceso, no? Perché non c'era nessuno, dunque mi ero dimenticato di spegnerlo. Vendo a Manzano, capita, all'ultimo di Manzano, ti sento la modulazione. Si vede che c'era qualcuno che lavorava, magari lo stavano usando in quel momento. E allora mi sono accorto che avevo il PMR acceso. Però mi è successo anche altre volte di lasciarlo acceso. E di lasciarlo anche due giorni acceso, sempre in ascolto, con il volume abbassato. E poi quando l'ho preso ancora c'era batteria, ma sempre per l'ascolto. Ma se trasmetto, gli dà ragione. Vai Bacchi. Io, se trasmette se ne va. Bene, io ne approfitto del micro per salutarvi e passare in PRT, perché è arrivata l'ora per me del merendero. È arrivata l'ora. Benissimo, ciao Giulio, buona serata, grazie delle quattro chiacchiere che abbiamo fatto, idem con le patatine anche per Tone, salutate i rispettivi QRA familiari e Bacchigio passa in QRT causa medicine. Ciao a tutte e due. Ok, ciao Bacchi, ci sentiamo alle prossime. Ok. Giulio, anche io che mi so ciamendi. E chiudo anche io, chiudo. Ci sentiamo alle prossime, Giulio. Ok, riprenditela. Ok, allora ti saluto a te, a Battisio, e vi ringrazio per la chiacchierata. Dai, ci sentiamo domani, eventualmente se coincide. Ciao a tutti, buonanotte e buonasera. Dai, a risentirci, ciao. Ok, ciao Giulio. Ciao, ciao a tutti e due ancora.